Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa settima puntata delle Marche Online. Le Marche Online, vi ricordo, un progetto di ricerca che promuove i migliori siti internet che riguardano la regione Marche. Oggi parliamo di misteri e di come questi fenomeni possano coinvolgere anche la nostra regione. Per questo, anche in base alla recensione che abbiamo appena fatto del sito internet del MIR, il Mystery Investigation and Research delle Marche, abbiamo in linea con noi uno dei collaboratori del MIR, uno dei fondatori, nonché studioso dell'argomento misteri, Gabriele Petromilli, che salutiamo. Salve, signor Petromilli, le Marche sono una regione misteriosa? Almeno rispetto ad altre regioni italiane. Ha una tradizione magica notevole, se così vogliamo dire. Notevole nel senso di tradizioni folcloristiche che si sono perpetrate in secoli praticamente. Questo penso che sia uguale alle altre regioni d'Italia. Sì. Però c'è da dire che in Italia, da un punto di vista più propriamente esoterico, l'Italia, le Marche volevo dire, sì, ha delle caratteristiche particolari, soprattutto incentrate su due figure che hanno fatto epoca internazionalmente. Uno, Cecco d'Ascoli, certo, che è un poeta alchimista del Medioevo, e l'altro soprattutto del Conte Cagliostro, che proprio nelle Marche ha visto la sua fine, nella, sì, Rocca di San Leo. Più bisogna anche constatare tutta una tradizione mitologica che ha del magico, mi riferisco in particolarmente ai miti dei Monti Sibillini, con, sì, la Sibilla e tutta la letteratura che ne è conseguita, e soprattutto i miti del Conero, del Monte Conero, proprio qui vicino a noi. Questi sono i punti, diciamo così, salienti della, detto brevemente ovviamente per ragioni di spazio, che riguardano la nostra regione. Benissimo. E senta, signor Petromilli, come è nata l'idea di fondare questo centro studi, il MIR, e quali sono attualmente le attività principali e i progetti per il futuro? Sì, innanzitutto è un'associazione, non è un centro studi, quindi sì, comprende, voglio dire, che chiunque voglia farne parte ovviamente può farne parte. Benissimo. Come è nata l'idea? E esigenze di qualche, inizialmente di qualche fondatore appassionato dell'argomento, che si sono messi insieme, che ci siamo messi insieme, per la precisione abbiamo dato vita a questa associazione, che è registrata ovviamente secondo i crismi, e il campo d'azione non è solo le Marche, ma anche tutta l'Italia e, se possibile, anche fuori dall'Italia. Si basa soprattutto sullo studio, sulla ricerca, sulle indagini, su tutto ciò che è misteriosofia, cioè va sia dalle tradizioni esoteriche e storiche anche alla fenomenologia paranormale e anche all'ufologia, tanto decantata materia. Sì. Ha dei collaboratori, molti molto attivi, e sono esperti in ogni settore, quindi si sono organizzate delle sezioni specifiche di studio sui vari argomenti. Come produzione, a parte i convegni e le conferenze che si sono organizzate fino adesso, fino a questo momento, e che avranno anche un futuro svolgimento, c'è la produzione del video Nostradamus, un documentario più che un video, Nostradamus, sì, in Ancona, Fatti e Profezie, che adesso non so se mi consente fare un po' di pubblicità. Non c'è problema. Ecco, è in vendita nelle maggiori rivendite, librerie soprattutto. Della regione? Della regione o? No, no, di Ancona. Ah, benissimo. Ancona, perché è un fatto anconetano. E tratteggia praticamente lo svolgimento della visita di Nostradamus, che poi visita più che visita un soggiorno di Nostradamus in Ancona nella seconda metà del Cinquecento, incontrandolo nel periodo storico, magico ed esoterico della città ancora dorica in quel momento storico. Benissimo. Più c'è stato anche una produzione di un libro, Marche Templari, che ho scritto personalmente io, ma purtroppo non so se è più reperibile perché è andato letteralmente a ruba, e questo è una cosa molto, molto buona per noi. Certo. Progetti per il futuro, per adesso solamente degli incontri culturali aperti a tutti, un convegno che sono in preparazione attraverso gli organi competenti. Sì. Parlo dell'amministrazione degli enti locali pubblici, e progetti di studio e tutto quello che via via si viene presentando, noi con la solita dovizia e con la solita precisione, almeno quello che ci riconoscono tutti, affronteremo queste tematiche via via che si vengono a presentare. Bene, ringraziamo Gabriele Petromilli del MIR per la sua disponibilità e lo salutiamo. Arrivederci. Arrivederci e risentirci presto. Salve. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.